Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ho sempre pensato a New York come un immenso set cinematografico in cui milioni di persone recitano la loro parte, pronte a vivere grandi drammi e a godersi finali felici. E ho sempre sperato che lì, un giorno, mi avrebbero assegnato un ruolo da protagonista. Questo era Filippo Timi nei panni di Mrs. Fairytale, uno dei personaggi del fantastico spettacolo Favola, che ha portato in giro un po' in tutta Italia. Timi ci ha prestato gentilmente la sua voce per parlare di un libro che si intitola Goditi il problema, l'ha scritto Sebastiano Mauri, pubblicato da Rizzoli. Sottotitolo: la commedia indiavolata di un single seriale ad un passo dalla monogamia. Sostanzialmente si racconta la storia di formazione sia sentimentale che sessuale di un ragazzo italiano che decide di andare a New York. Per Sebastiano Mauri questo è il primo romanzo. Allora Sebastiano, partiamo dal protagonista di questo romanzo, Martino, che decide appunto di andare a New York. Ce lo descrivi brevemente? Martino è un ragazzo cresciuto in una famiglia molto inusuale negli anni 70, è una famiglia tanto ricca quanto alternativa, in mezzo a quelli che la madre chiama gli utenti, cioè ex comunemente conosciuti come matti, cioè gli ex internati in ospedali psichiatrici che poi vengono liberati in Italia con la legge 180. Cioè la famiglia ospitava, insomma, persone... Sì, ospitava, ecco, in questa grande casa alle porte di Milano, cresce in una sorta di comune, in una... Oltre ai suoi genitori ci sono appunto questi ospiti di ogni tipo, sempre diversi, e vigono regole affatto borghesi, tanto che Martino appunto quando guarda la televisione gli sembrano tutti degli alieni queste famiglie che vengono proposte, classiche. E certo, perché la famiglia di Martino è decisamente originale. Una delle cose che mi ha divertito di più in questo libro per esempio le scene che si descrivono nell'asilo di Martino, perché Martino frequenta un asilo del tutto particolare. Sì, Martino va a un asilo autogestito, appunto con un grande, per dare un'idea, un grande poster di Janis Joplin all'entrata, maestri, ventenni, fricchettoni, figli dei fiori con lunghe trecce e dreadlocks, nei quali non... Vigono. Ogni tanto Sebastiano Mauri ha problemi di lingua, lo diciamo perché ha vissuto tantissimo in Argentina e negli Stati Uniti, quindi diciamo fai fatica un po' a ricordare le parole in italiano. Diciamo che quella è la mia scusa. È la scusa figa. Ogni volta che faccio una scivolata. E allora dicevamo in questo asilo, per esempio, dove i bambini sono quasi sempre nudi e dove sono liberissimi di esplorare la propria sessualità in ogni modo che gli sembra possibile. Toglimi una curiosità, esiste veramente un asilo del genere? Sì. Beh, diciamo, per essere corretti, è esistito veramente, erano altri anni, esistevano asili autogestiti e devo dire che io sono andato a un asilo autogestito. Vabbè, abbiamo capito che il libro è praticamente autobiografico, da questo ci hai svelato che... No, il libro ha molti elementi autobiografici, però ci tenevo molto a scrivere un romanzo, per cui ci tenevo molto anche alla libertà di poter inventare tutto quello che volevo inventare, di far cadere Martino in trappole dove non sono caduto, di anche fargli risolvere problemi che io nella vita non ho risolto. Insomma, ti sei rifatto la tua storia, la tua biografia personale in un romanzo. Esattamente, e non sempre per il meglio, perché è anche una commedia, quindi essendo una commedia c'è bisogno di ridere di qualcuno e per lo più si ride di questo malcapitato, quindi insomma il mio alter ego non è sempre una versione infiocchettata mia, anzi spesso... No, devo dire che io mi sono divertita moltissimo a leggere Goditi il problema, perché l'ho trovato innanzitutto autoironico e poi hai un linguaggio veramente schietto e semplice, in cui praticamente con il quale riesce a portare il lettore direttamente nella scena e a fargliela vivere, a volte anche con insomma scene descritte in modo molto esplicito. Sì, diciamo, forse questo nasce dal fatto che ho iniziato questa storia specifica un giorno in cui una mia amica mi ha letto questa citazione di una scrittrice americana che si chiama Brenda Wayland, che diceva: scrivi come se tutte le persone che conosci non dovessero mai leggerti. Quindi ho fatto un po' questo esercizio, ho veramente portato avanti questo romanzo io davanti al mio computerino, immaginandomi che fosse quasi un diario, una storia scritta solo per me, e in questo modo sono riuscito a censurarmi il meno possibile. Poi non censurarmi del tutto, non ci crede nessuno, non esiste. Non ci credo neanche io. Assolutamente. Però è vero che sì, ho provato a non scrivere preoccupandomi del lettore che importa a te, come ognuno di noi, cosa dirà la zia Peppina. Ecco perché ci sarebbe molto da dire, poi ti chiederò come ha reagito la tua famiglia, adesso capirete, insomma. Sentiamo a questo punto la descrizione di questa famiglia particolare in cui è vissuto il protagonista. Volevo solo specificare che Filippo in questo caso sta leggendo in personaggio, Filippo Timi. Sta leggendo con la voce di Mrs. Fairytale, che è il personaggio che lui ha creato e interpretato a teatro nello spettacolo Favola. Quindi più correttamente, più che Filippo Timi, è Mrs. Fairytale che sta leggendo questi brani. Perfetto, che sta leggendo questi brani. Allora sentiamola. Da piccolo sospettavo avesse ragione Lina quando diceva che qualcosa non quadrava nella nostra famiglia. E quel poco di televisione che vedevo di nascosto in camera sua confermava la tesi. Eravamo le cavie di un modello educativo i cui risultati nel lungo termine erano ignoti. I Bradford, i Jefferson, gli Ingalls mi sembravano tutti degli alieni. Le loro famiglie non assomigliavano affatto alla mia. Pregavano prima di mangiare, non permettevano ai propri cani di entrare in casa, ritenevano che una macchia di pomodoro fosse una buona ragione per cambiarsi la camicia e, incredibile, usavano sotto i bicchieri. Vederli in televisione era un viaggio in terre lontane, in case dove si cenava alle 8 di sera, seduti intorno a un tavolo ben apparecchiato, non alle 10 accovacciati su cuscini tunisini e accompagnati da un'esercitazione di bonghi. In spiagge dove i bambini mangiavano la focaccia imbottita col prosciutto cotto, non ricci di mare, crudi, staccati dagli scogli a mani nude, e dove le madri proibivano ai figli di fare il bagno, a meno che non fossero passate 3 ore per la digestione, anziché incoraggiarli a nuotare tra i barracuda. Bambole per le bambine e macchinine per i maschietti. Sapevo che erano esempi di quelli che i miei genitori chiamavano bibi, i borghesi bigotti, nemici numero uno del progresso e del benessere dell'umanità. Io però non potevo fare a meno di chiedermi cosa si provasse a cenare senza che una scimmia indonesiana di nome Clarissa ti rubasse il petto di pollo dal piatto per strofinarselo sui genitali. E così abbiamo avuto la descrizione della famiglia di Martino, il protagonista di Goditi il problema, scritto da Sebastiano Mauri. Sebastiano, allora, diciamo che Martino ha una famiglia strana, decide di andare a New York, inizia ad avere le sue prime esperienze sentimentali e sessuali e qui ha un po' di dubbi sulla sua identità. Sì, diciamo, il libro poi si concentra soprattutto in questi anni di formazione a New York, in cui lui va a studiare cinema, e mentre porta avanti questa sua improbabile carriera per cercare di sfondare il mondo del cinema, scopre anche se stesso in diverse, molteplici, multiformi tappe. Perché Goditi il problema è anche la storia di questo bambino che a 5 anni promette a se stesso, sacrificando la sua Barbie preferita, Barbie Malibu, che non sarà mai e poi mai omosessuale, ed è un po' poi la storia di questa sua mantenimento di questa promessa che crea questo essere diversamente eterosessuale, direi, fino all'incontro con l'attore Alejo, che è il primo uomo con cui lui sta, che e lì capisce insomma nuovo... che quella promessa non può essere mantenuta, insomma. Sì, capisce che non ha senso mantenerla e soprattutto si chiede perché, per chi lo sta facendo in fondo. Allora, abbiamo detto che è in parte solo autobiografico questo romanzo, ma visto che racconti tante cose, c'è la descrizione anche molto esplicita di alcuni incontri, diciamo, fra Martino e i suoi compagni, come ha reagito la tua famiglia quando ha letto questo romanzo? Ma per fortuna la mia famiglia, a cui appunto mi sono ispirato per raccontare la famiglia di Martino, è una famiglia liberal. Il mio ramo specificamente è il più liberal di tutti, quindi sicuramente non ho avuto la reazione tipica che ci si aspetta dalla mamma media italiana. E poi loro hanno letto in verità questo romanzo a vari momenti della stesura, insomma non gli è arrivato. Gli è arrivato, hanno sicuramente avuto molte sorprese, perché ho anche raccontato loro attraverso questo libro cose che non gli avevo mai raccontato a voce. Però non hanno mai avuto un atteggiamento di censura, assolutamente. E allora io ringrazio Sebastiano Mauri, autore di Goditi il problema, pubblicato da Rizzoli, un libro divertente e anche a tratti commovente, la scena della Barbie della nonna, insomma, se lo leggete poi come al solito scrivetemi a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Come sempre vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore sul nostro sito internet. Un saluto da Alessandra Tedesco.